Vangelo di San Marco, capitolo 9. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. E fu trasfigurato in presenza loro, e i suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un candore che niun lavatore di panni sulla terra può dare. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. E Pietro, rivoltosi a Gesù, «Maestro», disse, «gli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», poiché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. E venne una nuvola che li coperse della sua ombra, e dalla nuvola una voce, «Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo». E ad un tratto, guardatesi attorno, non videro più alcuno con loro, se non Gesù solo. E come scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano vedute, se non quando il figliuolo dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero in sé la cosa, domandandosi fra loro che cosa fosse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero, «Perché dicano gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli disse loro, «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa, e come mai egli è scritto del figliuolo dell'uomo che egli ha da patir molte cose e da essere sprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e anche gli hanno fatto quel che hanno voluto, come è scritto di lui». E venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla, e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e corse a salutarlo. Ed egli domandò loro, «Di che discutete voi con loro?» E uno della folla gli rispose, «Maestro, io ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo, e dovunque esso lo prende lo atterra, ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto». E Gesù rispondendo disse loro, «Oh generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo». E glielo menarono, e come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsione, e caduto in terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al Padre, «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse, «Dalla sua infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». E Gesù, «Dici, se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò, «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». E Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, «Spirito muto e sordo, io te il comando, esci da lui e non entrar più in lui». E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il fanciullo rimase come morto, da che quasi tutti dicevano, «È morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in pie. E quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato, «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi?» Ed egli disse loro, «Cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partitosi di là, traversarono la Galilea, e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse, poiché gli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro, «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno». E tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà. Ma essi non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. E vennero a Capernaum, e quando egli fu in casa, domandò loro, di che discorrevate per via? Ed essi tacevano perché per via avevano questionato fra loro chi fosse il maggiore. Ed egli, postosi a sedere, chiamò i dodici e disse loro: «Se alcuno vuol essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro, e recatoselo in braccio, disse loro: «Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me, e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, poiché non v'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me, poiché chi non è contro a noi è per noi, perché chiunque vi avrà dato a bere un bicchiere d'acqua in nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà punto il suo premio, e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. E se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Meglio è per te entrar monco nella vita che aver due mani e andare nella gehenna del fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrar zoppo nella vita che aver due piedi ed esser gettato nella gehenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che aver due occhi ed essere gettato nella gehenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Poiché ognuno sarà salato con fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli un con gli altri.